là. Tu non parli più casa tua, che su. Arrivo, senti, bene. Vannino, ci sei? Canale 10. Hola, hola. Attenzione 10. Avanti. Avanti canale 10. C'è qualcuno qua? Hola. Hola. C'è qualcuno sul canale 10? C'è qualcuno sul 10? Sì che ti sento, Nico. Volevo sapere come sta facendo di radio. E anche io ti ascolto basso basso. Aspetta un attimo. Nicola, guarda un po', adesso meglio mi senti? Lo so che c'è molto QRM. Sto provando un apparato, capito? Prova, dai. Aspetta, Nico, un attimo, eh. Aspetta, Nico. Nicola, come mi ascolti? La radio forte? È un apparato omologato, sto provando, capito? Allora, aspetta un attimo. Hola. No, perché fa così? Va bene così? Saranno disturbi, non lo so. Aspetta un attimo. Ecco, hola, adesso dovrebbe andare bene la situazione così. Hola. Hola, hola. Io ti sento bene. Anch'io c'ho molto QRM. Io c'ho molto QRM qua. E infatti, Luca, chi c'è qua? Attenzione, 10 per un controllo. Ehi, zio Natale. Natalino, mi ascolti? Natalino. Dimmi, Riccardì, come mi ascolti? Bene, fa un altro passaggio. Guarda un po' che sto provando il microfono normale e l'apparato nuovo. Come sto uscendo di radio? La radio è buona, anche il segnale 9-10. Come sto andando io invece? Anche tu stai andando bene, Riccardì. Un attimo che sto... Sì, mi sta facciardando talmente forte. Sentito hai la 50, cosa ha detto? Che la stavi assorbendo di quanto è forte. Aspetta un attimo che sto regolando le stazionarie, ecco qua, così, ecco perché si era spento, hola. Hola. Quindi adesso va bene, dai. L'ho fatta con l'MB più 4, sul primo passaggio più forte ne ha sentito. No, è uguale, non si è cambiato di molto. Aspetta che attacco l'MB più 4 a vedere se amplifica con questo apparato, se no vuole aperto un po'. Ehi, fai Natalie, come piace il microfono, dimmi se cambiava di molto rispetto all'altro apparato che ho, adesso ne sto provando un altro. E questo è un altro apparato, Riccardi, questo è l'omologato che mi è arrivato poco fa. Come sto uscendo con l'MB più 4? Va meglio, si sente l'amplificazione. Chi è avanti? Avanti? Chi è che ha detto quanto sei bello? Io chi? Non ti ho conosciuto, va che ho un altro apparato e lo sto provando. Antonio Riserva. Questo è il 3009. E anche la colonnina mi è arrivata in fretta. E beh, Riserva, come ti sto arrivando? Antu, cosa dici di lasciarlo così, di non toccarla la M? Già arriva bene, cioè la radio bene esce con l'MB più 4. E avevo ordinato anche la colonnina, mi doveva arrivare questo il giorno 5 e la colonnina il 3. E mi è arrivato tutto oggi. La colonnina, l'altoparlante esterno, la radio l'ho comprata nuova da Amazon, quella che forse a te non te l'avevo detto. Volevo fare delle prove a vedere come esce in FM e in SSB, sempre su questo canale al limite. Antu, bene ti viene. Antonio, già ti sento, però la radio è strana questa che hai tu. No, è sempre cupa e bu, come che abbi qualcosa, magari il macchinino è troppo alto, Talino. Aspetta Riccardì, ripeti Antu, che forse sei schiarita. E dai, adesso è migliorata, dai. Non molto, ma è migliorata. Passa in USB. Ok, avanti Riccardì. Ma sai quando ti arriva Riserva, che è un po', come dire, un po' incomprensibile dalle mie parti? Anche a me è un po' incomprensibile, ma forse ho il microfono che non va bene. E se adesso me lo avvicino un po' il microfono. Così, più forte Riccardì? Sì, poco più forte. Perché poco fa ce l'avevo più lontano il microfono. Comunque il Turner sta andando bene, questo Turner? Sì, è chiara chiara la voce, bellissima. Ah, ma non è il più 3? Cappa, dimmi Antu. No, ha migliorato adesso. Adesso è di lusso veramente. Poco fa non ti capiva neanche Riccardo. Mi stava dicendo così che eri incomprensibile. No, adesso ha alzato anche il volume della radio. Sì. Adesso vai meglio. Ciao gava. Almeno c'ho il coso a... come si chiama? Lo smitter con la lancetta, almeno puoi dare i controlli. Tengo tutte e due qua, l'ho attaccato a un commutatore antenne per aggiungere tutte e due, e sono tutte e due omologati. Aspetta che provo il microfono suo originale. Sì, riprendo io, mi allontano un attimo, ritorno subito. Antu, questo è il microfono originale, è buono anche con questo, figurati. Attenzione canale 10. L'altro. Questo me l'ho comprato a chi non ne budiu più. Tutti mi gattigavani. Attenzione canale 10. Attenzione canale 10. Non mi intende? Mi che c'è un'attenzione, fallo venire avanti. Antu. Attenzione 10. Avanti, chi è? Buongiorno Barracuda, un controllo di radio me lo puoi dare per favore, stazione mobile. Mi arrivi Santiago 7, radio 4, da. Ah, K, va bene, no, stavo provando il microfono, d'accordo, dai, ci sentiamo tra poco. Ok, va bene. Ed è bello questo microfono mio. C'è scritto Star, c'è scritto. C'ha il numero dei canali in rosso, ce l'ha. È bello, questo cos'è, canale 9. No, è bello come apparecchio, da più selettivo e più tutto anche. Quelli omologati così. Ah, il tuo non è omologato. E poi è marcato cieno, così non mi buoni di nulla. Capito. Ah, Antu, volevo chiederti un'informazione. Siccome io ho delle cartucce nella stampante che non sono originali, come si fa a farla stampare lo stesso questo cavolo di stampante? Trovatemi, le hai? No, ma ne ho ancora. Gli ho cambiato solo il nero e blu. Questo ne ha due di neri, c'ha il nero fotografico e il nero normale. Sono tornato? Sì, sì, sono qua. Comunque questa è la XP630. Per non darti quell'avviso non si può fare nulla, Antu. Oppure se c'è qualcosa per resettare il chip della cartuccia. Beh. Scusate un attimo, ho lasciato il telecardo. Riccardi. Mi sono allontanato un attimo, cosa? Fammi sentire qua nel 10. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova radio, canale 10, 27075. Ok, lasciala così che già va bene. E ha continuato che mi stavo allontanando, che mi stanno sempre chiamando qui a casa, però ci sono, rientro. Va bene, ci sentiamo dopo. Ciao Antonio, che è l'altro, Natalino. Che? Ah, metto boccione, non te l'ho capito. No, va bene. Vabbè, i microfoni sono tutti uguali. Va bene, va bene. Ok, no, volevo sentire la radio di Riccardo che sta usando il mio 430, gli ho prestato in attesa che diano la sua. No, tanto non ne aggiungo manco uno. Ce l'avevo l'80, l'ho dato a Riccardo con 430. Boh, non so che dirti, non lo saccio. Che poi tra l'altro Riccardo sta usando il Tamer più 2 adesso, quindi sempre su 430 va benissimo lo stesso per quello, là. E a te Natalino, cosa stai manovrando? Arrivatati alla radio. Eia, non sto parlando con quella. Già va bene, microfono normale. Il normale suo, l'originale. È l'originale questo qui. Meglio di così, non si può uscire, va benissimo. La serata è puntella. È puntello sì, non li do con nulla. La così siamo logata. Non toccare niente, non fare cazzate di aprire, tirare, fare. Se disgraziatamente ti viene un altro controllo e ti controllano la radio, ci accorgono che è toccata. Lascia essere così grandi, beh. Infatti, io la lascio così, come mi è arrivata la lascio. Infatti, si raddocchi, beh, gira garanzia sì. Sì, ma cosa serve toccarla quando stai andando benissimo? Cosa serve? Per avere più radio? Va benissimo, lasciala stare così. Lasciala stare così, non tocca nulla. Lo ascoltavate bene Riccardo con la mia radio? Ehi, a voglia. Non tocca se. Tanto io arrivo poco voce. 9:30 sta arrivando qua. Cosa hai detto Riccardo? Non tocca se, ho detto, non tocca se. Bravo, non tocca se. Capito? Perché Natalina con cuomo sta sempre toccando. Cosa hai detto Anto? No, prima gli aveva dato Fabrizio, però ha avuto dei problemi e se l'ha riportata via perché la sta controllando. Adesso gli ha dato la mia. Ok, quindi se la usa e poi quando ci avrà la sua me la restituisce. Bene sì, Riccardino è Riccardino e non si tocca. Riccardino, tocca esemi. Prego per un controllo. Non tocco. Prego. Avanti un prego. Ciao Riccardo, buongiorno, buonasera a tutti. Puoi sentire nessuno, va? Io già ti sento, non sei a casa però. Io sono a casa, no, sto provando l'impianto. Guarda come va Claudio, per favore. La tua radio normale, va benissimo, Santiago 8. La bene, va bene. A te Riccardi com'è? Riccardino non ti senti a letto. Sto scherzando, già lo sento. Se mi ha fatto entrare, dove mi senti adesso? Sta scherzando, vai Riccardo, che è un controllo Massimiliano. Ciao Massimiliano, mi hai ascoltato, fai un passaggio che ti do un controllino. È giusto il segnale, mi interessa. Sì, il segnale è 7 e la radio è bassa, è un cos'è, un 4. Bassa addirittura la radio, va bene, va. Massimiliano, non è la tua di certo. Andiamo, dai, ci sentiamo dopo quando arriviamo giù a Papattango, ciao. Ciao Massimiliano. Ciao Natalie, sto spaccando tutto perché sono sotto casa tua, vai. Cava cava. Qui si sta a vedere in chi vivi? Si sta a vedere, io sono quello che porto a Torres. Ah, se devi fare, questa fa una scala, sì. Ah, va, sono insieme allo straniero qua che abbiamo fatto l'impiantino tutto a posto, vai. Tutto positivo, arriviamo alla scala. Natalie, è arrivata la radio. Oh. E questa è. Cambio. Natalia, è arrivata la radio. Cambio. Ah, mi sembra modulo a Froscio. Io vero, scusa. Oh, Luca, questa qui è... Cosa, Natali? Questa la radio è... È altra musica. Oh, come si sente con queste meno più 4? Aperta di LC. No, non gliela voglio aprire perché... sennò perde la garanzia. Comunque già va bene, là, va benissimo. E la voglia. Cava cava, da. Allora manca un'altra cosa. Cambio, cambio. Hola, hola, Coca-Cola. Sono qua, chi è? Avanti, pronto, con chi parlo? Sono il professor Piscitelli qua. No, l'aiutante tuo chi è? Ormai è impegnato la guida, questo è un impiegato al volante, si chiama, Ah, così, ma ora siete la barra pesante. Figa. Va bene, va bene. No, la radio... Io sono abituato a sentirti un po' più forte di radio, questa va bene, ma non è forte come la tua. Vabbè, questa è un'altra di radio, claro, e questa è la sua. E vabbè, che sia la sua non ho dubbi, però è un po' più la tua, cosa devo dire, se la voce è quella. Cava cava. Aspetta che mi squilla. Vabbè, divertite, vabbè, ci sentiamo più tardi. Ok, sono le 5, non è possibile stare la radio dalle 5 di sera. Ricca, sì, lascia tutto così e va bene, ok? Ehi a Claudio, a più tardi, se ci sei ancora, ci sentiamo più tardi. Io non sono qua, non ti preoccupare, mi allontano solo dalla radio ma è tutto acceso, se no è troppo presto e ci sentiamo più tardi, Va bene, lascia le regolazioni che ho fatto io, Se ti dico di abbassare, sollevare, fare, non tocca se, lascia stare tutto così. Ehi, non tocca se, non tocca se. Non c'è bisogno né di abbassare né di sollevare, va bene, è regolata così la radio. Ok, va bene, a dopo qua. Kappa. E io sempre bene sto andando, sì. Sì, Santiago Nuovo Radio 5. Tu sei 9:20 quasi. Ehi, sono dei privati. Che è bella? Natalia, ma ti è arrivata oggi? Ho trovato a posto, due dì da rivista al radio. E oggi è arrivata, anche l'altra colonnina mi è arrivata, quella che avevo ordinato. Doveva arrivarmi il giorno 3 e invece mi è arrivato oggi. La radio il giorno 5 mi è arrivato oggi. Mezzo gai, meglio così. Sono io. Ehi, perché a Luca non lo senti? Ah, io lo sento sempre uguale. Luca! Non hai già mai dato, no? Non ho guardato quanto stava arrivando. Anche perché sto mettendo a posto qua che era un macello. Capite? Luca, chi sei? Era ora. Ah, Luca è scomparso, lo sto chiamando. No, non sono scomparso, sto conservando i ferri che stavo piazzando una presa qua dal 25. Sono qua, dimmi. Ah, ti volevo chiedere un controllo, per favore. Stai arrivando 9:10 e bella la radio, guarda, ti ascolto bene. Ok, K, grazie. Chi è? Basso siamo tu. Ma perché ti arrivo bene io? Questo è il Typhoon famoso, là, quello che era tuo tanti anni fa. Sto usando col microfono quello della... come si chiama? Della President. Io ho fatto parlare a Maria da qua, e c'è bene, cavolo. Comunque tu sei segnale 4, ma la radio è bassa, tanto guarda 1, 1 e mezzo, non di più. Lo so, E sì, io c'ho un'antenna che se la vedi ti metti a ridere, ma... E beh, quella roba là... Vabbè, aggiungiamoci per mercoledì, che domani non ci sono a casa io. Ah, sì, vabbè, rientro domani sera, dai. Sono passato domani sera, sono mercoledì. Ah, va benissimo, ah, avanti. Mi assento un attimo, vado a farmi le mani, dai. Cos'è fatto? Tutti i ferri. Riprendi Natalino, mi stavi chiamando prima. È perché ho visto che eri sparito. Dai, comunque va bene, la diluso, a me non c'è un baracchino come si deve, Natalino. È un po' assiccato quei segnali, quando ti arrivo io? Vai. 1, 2, 3, 30, 40, 50. 9, 10, radio 5. Addirittura 9, 10, cazzo. Io sono 20 watt, 15 watt stanno questa radio. Tu sei 9, 5 qua. Ma io sono con 4 watt però. Ah vabbè, dai, ma è risolto, dai, ma così più tranquilla, va, non sei stressato. E infatti, tutti mi gazzicavano, mamma mia, non potevo dare un segnale perché c'avevo lo smitterlonfio. Tanto lo so, tu mi arrivi 9 qua, no? Quindi sei 9:10. Ehi, guarda, io gli ho messo la lampadina, ma gli ho messo i led nello smitter. Dai, riprendete voi, riprendi Riccardino. Ehi, riprendo io, no, non ci puoi credere, il vento che sta tirando ha buttato giù il generatore eolico. Aspetta, spero che non si sia rotto in mille pezzi. Hai capito? Stata lì. Oia. Si è piegata la spalla del generatore eolico, meno male ne abbiamo il ricambio. Perché il generatore eolico, vabbè? Sì, il generatore eolico sopra la mia stazione. Ah, quindi avete l'energia pulita. Sì, non è sporca, stai tranquillo. Oh, Riccardino, da te invece quanto arrivo il segnale, guarda un po'. 9:15, radio 5. Luca! Va bene, dai. No. Tu lo stesso. Mi stavano chiamando. Beh, c'era Antonio, ha detto quanto arriva lui. Ah, prova Anto. Anto, fai un passaggio. Santiago 8, radio 5. No, aspetta, non radio 5 più 4. Santiago 8, radio 4. E io organizzati, lo sto cavolo l'antenna la piazziamo. È una buca, anche lì su chi è, io. Aspetta, cosa? Non ho capito, da lì. Un attimino, sganciamo la vecchia e mettiamo la nuova. Sganciamo la vecchia, la togliamo e mettiamo la nuova. Che appesa, Natali. Ma il bipia si può togliere qua, non pensano. Si può togliere. No, niente furbici. Questo deve rimanere virginello. Allora glielo lascio. E gli avvenivano i bombi. Per esempio l'MG4 non me l'hanno toccato, prima non si poteva avere il microfono preamplificato. Ti mettevano la multa, invece con questo, siccome è anche marcato CE, non mi hanno educato. L'unica cosa che non mi hanno sequestrato è questo, è l'alimentatore. Infatti, si la ciappano attaccata all'apparecchio di Nerubigliani. L'alimentatore, meno male che era marcato CE, sennò Purghizio me ne aveva invato. Beh, uno a zio Natalino non glielo regali. Io ti do l'MB+4, quello in scatola. E ti aggiungo qualcosina, bene va. Maledetto. Un attimo, dazzini, cazzo, non è venuta di là. Vabbè. Quando ci abbiamo i soldi ce lo compriamo. Perché l'MB+4 va bene per il coso. Tu devi sentire a Giulio come esce con l'MB+4 attaccato a quell'apparato uguale al tuo. Ah, ma questo funziona bene, l'unica cosa è che mi rompe le scatole e non c'ha frequenzimetro. E almeno sapevo la frequenza pure. Ma vabbè, ci accontentiamo per il momento. Già lo so, è molto bene a costare, Antu. Eppure lo cerco, così me lo piazzo. E almeno vedo anche la frequenza per quando sarà, ma non mi interessa, tanto adesso deve rimanere così. Ehi, già lo so, il frequenzimetro già lo puoi usare, no? Che l'importante sia marcato CE, se no... Natalino! Oh! Mica si ingressava, visto che il babbo ha detto... detto che se li vuole tenere stretti, c'è uno che sta vendendo il Turner che andrebbe bene per te. Ma adesso mi ho consumato i soldi. Ah, ho capito. Perché gli ho chiesto a Babbo e ha detto che se li vuole tenere stretti, che non si trovano dappertutto quelli. Ehi, già lo so. È per quello, Ma già me lo busco uno, e pensare che c'avevo il più 2, il più 3, Vaviro Schuller, tutto ma giovinduto. E i soldi mi servivano. Non ho giù 4, ma la chinava di comprare già 3 e 4. Mi mongo 2 nei piedi, 2 nei mani, la 3 e 4 mi ricuda a fianchi. Allora, questo telefono qua, Roberto mi ha riveliciato il tappo ed è uscito nuovo, questo è andato adesso. Fiammante, una fiamma, a me mi faceva schifo. Adesso devo sistemare l'altro Typhoon, quello modificato. Ma quello modificato ne voglio 200 per la spedizione, se lo devo spedire fuori, di me non lo do. Dai, io mi assento un attimino che devo portare il cane, Antù, per fargli controllare questo coso che ha dal veterinario. E dove lo porti, Luca? Allora, tramite amici mi hanno consigliato di portarlo, anche Fracassi è bravo, niente da dire, ci mancherebbe. Lì in via Le Caprera, non mi ricordo il cognome, boh. Sai come si chiama? Che forse lo conosco. Aspetta, lo dico. Aspetta, uno si chiama Fabio e l'altro Nico? Guarda, si chiama Dottor Tiana. Forse mamma lo conosce, no, io pensavo un altro, ho capito, no, vabbè, non è lui, forse. Anche la mamma di Riccardino è veterinaria. Ragazzi, gli mando una foto a Riccardino, non l'hai già vista la foto del mio cane? No, non l'ho mai visto il tuo cane. Fagliela vedere a mamma, te l'ho mandata. Ah, ecco, sì, l'avevo visto su Facebook. Mamma mia, vederla così me ne duole il cuore. E adesso, dopo gliela faccio vedere, adesso un attimo sto trasmettendo che se è correttata. Io non ce l'ho il numero di Riccardino, se no gli avrei fatto vedere il mio, il cane, quello che ho io. Il mio l'hanno morsicato, 4 operazioni gli hanno dovuto fare perché gli ha troncato la gamba, la zampa, di dietro. Ho capito, invece è uno che gli avevamo dato un cane, è caduto dal terzo piano, meno male se l'è cavata. La gamba zoppica ancora un pochino, ma meno male siamo riusciti a curarlo. Il mio 4 operazioni gli hanno fatto, ma si è ripreso alla grande, però. Ma la 48. Ma come intendi, Zocca? E invece la propagazione, sud Spagna. Natalo guide. Oh, ciao Marco, l'apparecchio mi è arrivato, te l'ho detto che mi doveva arrivare. Mi è arrivata la colonnina uguale alla tua e l'apparecchio dopo. Questo qui è con l'MBP4. Condor! Buono, buono già, poi con calcio, sono appena tornato alla spesa, scusate l'irruzione sul canale, ho sentito solo Natalino, ciao, mi pare anche a... Ah, Riccardino, Riccardone adesso col segnale che ha. Mi dai un controllo? 9+15, radio, prova un po'. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova radio, canale 10, 27, 0, 75. Buono, direi che ha dei bei bassi, dai, siccome tu avevi hai la voce molto acuta, ricca, giovane, no, voce bianca, quello te la fa più mascola, capito? È buona. Ok, grazie Marco. Ehi, dai, che sto mettendo a posto la spesa, Natalie. Poi me lo fai sentire col mic normale, però mic normale. Eia, il mic mi è arrivato quello tipo il Cobrami, non mi è arrivato quello che c'era in fotografia, che c'è scritto Star. E come mai? Ascolta, ma dietro c'è... no, va bene, parliamo in altra sede, ok? Volevo sapere se c'era l'ascolto Giovanni Bracco o Roberto Quadrato. No, non c'è nessuno. Questa propagazione, caspita, incredibile, credevo fossero con voi. Va bene, signori, vi saluto. Ne parliamo fra quando esco dal coma, qua, da fra un'ora, tanto devo anche mangiare. Ciao. Ciao a tutti, qua Erika. Ok, ciao Marco. Anche io mi assento, vado a provare a fare due QSO. Ciao Natalia, dopo. Ciao. Ciao Marco, lì da. Scusa un attimo, qual era il canale di chiamata? 27555. Ok, faccio una prova, grazie. In USB, Uniform Sierra Bravo. Io purtroppo con questo non ci posso andare. Oh, ma non mi piace, ma con me non ho più voglia. Manco i FardX. Qua è acceso, volume basso. Mamma che caldo che c'era, in macchina, porca miseria. Che pagava. L'ho attaccato a un commutatore d'antenna, Marco, e tengo uno e l'altro, tanto sono tutti e due omologati. E sono contento. Facciamo così, quell'applicazione ce l'hai solo, è sempre il programma attivo, quello videochiamata. E ci metto molto a attivarlo. Marco, sto accendendo il computer ed è attivo. Oh vabbè, sono tornato. Provato a chiamare Riccardo, ci vogliono un po' di vatteli, perché si accavolano uno sull'altro poi. Infatti ci ho pensato, ci ho riflettuto prima, come hai detto tu, e infatti non sono entrato. Poi, vabbè, a me personalmente piace parlare più con gli italiani. Cioè non sono quelli, ecco, stazione cosa dall'Italia, 5-9 per te, avanti un altro, cioè a rotazione non mi interessa. Mi piace più scambiare due parole con gli italiani come facciamo noi sul 10, no? Almeno la stessa lingua. Già ti ho capito. Quindi chi c'è rimasto? Io mi devo sentare, Ricca, dai, sistemo le cose, faccio qualcosa da mangiare, che io ho orari strani, no? Poi se entra qualcuno più tardi bene, se no alla prossima, dai, sentiamo, ciao. Ciao ciao. Versi. Avanti, zio Natale. Aspetta che sono al telefono. Va, chi è? Avanti. Vale Malaga, buenas tardes, escucha Alfa 21, Alfa 21, tanto Riccardo che vi sta chiamando in frequenza. Vale Malaga, è il tuo corre Z. Malaga, vabbè, lasciamo perdere. Chi è? Avanti. Ciao Dolbenti, c'è questo che sta facendo il cane, l'hai sentito? Sì, l'ho sentito, ciao Dollarino. Ciao Roberto, anzi no, Robertino. Vabbè dai, Riccardino, lo stesso, dai, Robertino, Riccardino. Come dire, deve essere qualche cane fuori da questo guinzaglio. Eia, mi dici, mi dai un controllino? 9 più 12, là. 9 più 11, 12, stavo lì. La radio è buonissima. Vale, sto usando un altro apparecchio. Sì, te lo sento. Già sento anche il rumore del microfono. Per cui io lo so. Siamo quasi uguali. K, va bene. Chi c'è rimasto? Zio Natale è al telefono. Ci sei tu, io e basta. Marco è andato a raccogliere la spesa. E basta, non c'è nessun altro. Vabbè. Ma io sto facendo cosa comunque, dai. Fate qualche chiamatina in DX. Così passa il tempo. Io abbandono per il momento che sto facendo cosa. Aspetta, no, Ehi, ho scoperto l'altro giorno quando Gianni ha fatto quel segreto, siete andati su 20 facendo di ex. Potevate dirmelo. E tu perché non sei entrato? Se mi hai sentito, perché non sei entrato? No, me l'ha detto Gianni, me l'ha detto dopo. Ah, ho capito. Sì, vabbè, un po' dappertutto, ma quando c'è papà d'attore tu gira i canali, non è detto che dobbiamo rimanere sempre sul 10, no? Quando c'è papà d'attore uno si sposta anche in banda laterale, per cui non è che ci sia un canale fisso. Dopo c'è meno rumore, io mi fermo lì e faccio chiamata, se vuoi, naturalmente, se ho pazienza. No, già stavo scherzando, perché io sono un appassionato di ex che mi interessa farne, ma già l'ho fatto anche sul 10 che c'era qualche italiano, un po' di collegamenti già li ho segnati. Ok, beh certo, sì, perché quando c'è gente da fuori, no, magari si danno il nominativo, poi ne entra un altro e magari uno si dimentica l'altro, il nominativo precedente e così via. Dunque, un pezzo di carta, una penna, man mano li senti, scrivi il nome e ciccia e vai avanti così, no, non è che puoi fare più di tanto, no? Tanto questione non è che se ne fa, si fa questione a livello di dammo controllo, come sto arrivando, mi senti bene, tutte queste cose qua, tutte queste stupidaggini e si tira avanti. A proposito, come ti sto arrivando io adesso con quella radio lì? Vai, guarda bene. Sì, guardo bene, 9:25, radio 5. Ok. Va bene, dai, va bene, ottimo. Alla grande. Vabbè dai, ricordi che io continuo a lavorare qua, che sto facendo delle cosettine e ho un po' di cose in mezzo che devo anche terminare e poi ritirare il tutto, se no non stavo facendo una prolunga eccetera eccetera, perché ho voluto spostare un po' l'alimentatore. Infatti dimmi a proposito, se senti il rumore dell'alimentatore, guarda io non parlo, ti lascio la portante, dimmi se senti molto il rumore dell'alimentatore, la ventola. Ecco, hai ascoltato? Sì, però secondo me non è questa cosa fortissima, già vai bene. Però ho cercato di nasconderlo un pochino, ma purtroppo siamo troppo vicino alla radio, per cui il rumore della ventola si sente sempre. Va bene, dai, continuo io, Riccardo, dai. Fatti qualche DX, se c'è preparazione, che qualcuno già sembra che ci sia. Ma magari spazzola sui canali, se non senti qua vai in altri canali, soprattutto sui canali alti, tipo 27, 300, 350, 400, 400, tutti questi canali così, anche 500, 27, 500, su quelle frequenze di solito ci sono sempre, in banda laterale però, in banda USB, capito? Banda USB, e provvi e ti puoi fare qualche DX, ok? Eventualmente ci sentiamo più tardi. Ciao Riccardia, dopo dai, io devo continuare qua, dai, non posso lasciare qua tutto in mezzo ai piedi. Ehi, ciao Giulia, più tardi. Comunque sto qui in ascolto, sì, se no se voglio fare il DX basta che vado sul canale di chiamata. Ti rimasto sul canale 10, 27075. Natalino, Zuzé, o sei ancora al telefono? Avanti, usignolo! Ha perso il cane, ha perso Ricca. Cosa? Che ha perso il cane. Ah, ho capito. Aspetta, facendo cosa, ci sentiamo dopo, ok? Già sono qui, sto aspettando che qualcuno entri o ci sia un po' di propagazione con la buona. Roberto ha provato a chiamare e non mi risponde, ma prova a chiamarlo tu e dirgli quella cosa che sappiamo noi. No, l'ho già chiamato, ha detto come torno a casa facciamo una prova. Ma gli hai detto quello che sappiamo noi? Sì, positivo. Aspetta, se so, un attimo, scrivo per messaggio che se è quello che intendo io. E io quello che ti ho detto io. Ah, ok, allora sì, lo sa già. Va bene, dai, ci sentiamo dopo. E Maria, ciao Cla. Anch'io sto in ascolto un attimo finché non entra qualcuno. Sì, sì, dai, sentiamo. Hai visto il vento che si è messo? Sì, c'è un bel vento, mi ha buttato giù la turbina eolica, meno male il generatore eolico, meno male che abbiamo la palla di ricambio. Maestrale, si è messo maestrale. Va bene, dai, sentiamo dopo. Ok, ciao Claudio. Come ho detto, sto in ascolto, vediamo se c'è qualcuno, canale 10 27 075. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova radio. Canale 10, ti c'è su CH10 27 075. Ciao, ti c'è su canale 10. Prova radio. Cosa? Non ho capito. Danilo. Chi è che chiama Danilo? Io sono Alfa 21. E vai al 12. Hola. Alfa, yo te voy a llamar, ¿cómo anda? Dale, está ahí. Tengo ya ganas que se venga para acá, que dejemos ya trabajar, ¿eh? Erru, a ver. Está copiado, Andini. Rico, dile. Montar nuevo. Tan guapo, ¿no? Aquí, tú hablas con él ya. Tú a lo que onda, ya está un tiempo con él. Cómodo, casi cómodo. ¿Dónde? Ahí en vez de coser, yo estuve ahí viendo los dos de la vida. Che sì. Che sì. Allora. Ebbene, sentite a Roberto, ho lasciato perdere visto che gliel'ho già detto io. No, non mi ha risposto, è anche impegnato. Ma se gliel'hai detto tu non c'è problema. Teniamo questa linea, ok? Ehi, teniamo questa linea. Mi ha detto, è un po' strano, lei sa che faceva roba, mi ha appena risposto un messaggio dopo una decina di minuti. No, a me Ricca non mi ha neanche risposto al telefono, figurati, mai, perché stamattina ero con lui, che mi ha dato uno strumento, capito? E niente, evidentemente è impegnato, non so, magari è al campo mi. O sta facendo qualcosa. Boh, vabbè, speriamo bene, è più tardi, mi ha detto ok, a dopo. Ehi, vediamo un po'. Aspettiamo quando arriva. Ehi. Prova a fischiare, Ricca. Ehi, picchi positivi, già va bene. Ok Claudio, c'è qualcun altro che stavo facendo DX e sono tornato sul 27075. Hai fatto bene, no io non ne voglio ricarci, ho la testa fusa, sono tutto il giorno al computer e non ne voglio. Sto preparando dei documenti per una gara d'appalto e sono fusomi, capito? Quando mi hai chiamato tu ero in ufficio via di San Francesco. Capito, adesso ho messo tutto a posto e poi domani vado e faccio le raccomandate, che c'è un mare di gente alle poste, una cosa allucinante. Mamma mia, scusa se ti ho disturbato prima. Ehi, no, non mi hai disturbato assolutamente, a me non mi disturbi mai, poi io in ufficio sono solo, non mi comanda nessuno, quindi non ti preoccupare. Avanti a tu. È vero, domani è festa, è sciuga, è meglio ancora, meglio. Non ci preoccupate, alle 7:30 mi devo mettere già in fila. Ma mercoledì non me la scampo ancora. Che sono le cose urgenti di lavoro, se no mio cognato mi dà impasto agli squali. E io insomma le raccomandate c'è sempre gente, o che devono farle, o che devono ritirare, poi in questo periodo ci sono un bel di cose da pagare, capito? Io c'ho una gara d'appalto in provincia di Nuoro e quindi abbiamo fatto l'offerta, adesso devo spedirla, però vabbè, c'è tempo 30 giorni, ma meglio spedirla subito, non si sa mai. Ah, grazie a Dio già ci stiamo difendendo, vabbè, mio cognato c'ha un sacco di agganci, un sacco di conoscenze, è stato tanti anni alla regione, è stato al comune di Sassari, quindi è conosciutissimo. Vabbè, queste cose me ne occupo io, e via. KK. Quindi ti piace la modulazione del Riccardino? C'è la voce calda lui, vai. Ancora la voce si deve ingrandire come lui, però esce molto bene, bella chiara, pulita. Va bene, avanti Ricca. Sì, avanti io e niente. Oh, prima c'era una propagazione, c'era uno, ci ha detto: cosa parli che non ti sente nessuno? Butta via l'antenna, comprati quattro orecchie. Vabbè, tu non gli hai detto, brutto maleducato che non sei altro, adesso chiama zio Claudio e ti presta le orecchie. Sono di non facendo Riccardo. Certo. E questo è il solito spagnolo che ogni sera si mette a ruttare, deve essere che mangia male e viene in radio a digerire. La mazza te le varie e pare a luci. Avanti Natalino. Chi era Natalino? No, Natalino, boh. No, avanti Natalino, se ci sei. Ma c'è mai Natalino? Avete mai il prosciutto voi? Ah, il prosciutto che l'hai tu, ma che ho preso, me lo bello. Ma perché non si può imbagliare? Cosa sì, nato imparato. Non ti ho capito, Tony, cosa? C'hai la radio Nasina. Nasina? Ciao Torino. Ciao a tutti comunque. Ciao Lorenzo, come ho acceso. Ti ho sentito e mamma mia, hai la radio. Ehi, cazzo, non ti perdi mai nulla. Non cazzo, innanzitutto, siamo seri, veramente, una volta per tutte, dopo ascoltate persone, c'è una radio Nasina, non è la sua. Apre il culo e Torica. Nasina, cosa deve avere? Sta usando un microfono adattato su una radio e quella è. E non è che c'è la voce come la nostra grossa, lui c'è la fine, non è Nasina, è fine, mi, la senti fine. No, è Nasina proprio, è diverso, non è la voce sua, là. Io l'ho sentita molte volte a Riccardo e usciva veramente bene, oggi la vede con diversa. Una voce diversa, sono d'accordo con te, una voce diversa è come quando dice a me, non è la tua voce, è chiaro che non è la sua voce, sta usando un altro microfono e un'altra radio, è così, cambia. Purtroppo cambia, quando lo senti con la solita radio e il solito microfono cambia ancora. Allora è più bene ancora con l'altra radio che c'era prima, 100.000 volte, neanche a paragone. Questione di gusti, Tony, questione di gusti. Questa è molto bella, è calda, bella squillante, c'ha acuti, c'ha molti acuti e secondo te sembra Nasina, ma non è Nasina, c'ha molti acuti. No, se tu noti bene, quando parla Riccardo, praticamente non solo Nasina, si sente anche un pochettino così si sente. Quello è lo stacco del microfono, sto usando un Tandem P2 da tavolo, degli anni 70, e a lui le piace il vintage, quindi non è che ci abbia le prestazioni al 100% di microfoni di ultima generazione, hai capito qual è il problema? Per me, se con il microfono normale forse dice che è meglio, non lo so. Io guarda, ma grazie a Dio sono un dito veramente perfetto e lo sento sempre bene Riccardo, sempre. Oggi mi sento, come ho sentito, detto, faccio che Riccardo. Sempre non ti piace, non lo so. Quello è la timbrica di quel microfono, anche se lo uso io, il Turner P2 è la stessa cosa, eppure io ho la voce molto molto squillante. Con i Turner la modulazione è quella, non si cambia. Non c'è niente da fare, me l'hai detto anche tu a me l'altra volta che stavo usando il Turner, infatti l'ho tolto e ho messo l'MB+5, non ve lo dava. Questo è il K e la modulazione è sempre quella, ma se io passo all'altra radio mi dici la stessa cosa, uguale, vai Ricca. Ehi, vado io e vediamo se adesso è migliorata, Tonino, dimmi la tua. No, c'è però lo stesso, non è che mi piace più di tanto la verità. Vuole usare un microfono che mi si addice, diciamo, no che cambia microfono, cambia cosa, sì ma questo è migliore, il microfono è migliore, ma se la voce è brutta, esce brutta dal microfono perché è quello che cambia, lo rimetti quello normale, ti ascoltiamo come ti abbiamo sempre ascoltato bene, ricordi, quindi è utile che cambia il microfono, dite che d'altro, no? Forse così è meglio con il microfono da palmo o non cambia? Allora, adesso, però, sinceramente, l'hai sentito come è uscito Riccardo? Sembra che ci ha preso, quando ti prendi un pettine e metti la carta velina e soffi, la stessa cosa, ha portato questo, cosa ha preso, si è portato? Ehi, ma sta usando il microfono normale, il volo è regolato, rimetti l'altro, Riccardo, lascialo dire a Torino, metti l'altro, metti. Se non le piace ci mette le cuffie a Torino. No, cazzo, siamo sinceri e onesti, cazzo, Ocla, che cazzo. Se mettiamo il microfono buono, mettiamo il microfono buono, si sente bene, non il microfono che esce a cazzo in cane, dai. È così la timbrica, Torino, è così. La timbrica 20 anni, più due soprattutto, che c'è una capsula ceramica ad alta impedenza, tra l'altro, non a 50 ohm, mi pare sia quasi a 70, esce così, non le puoi fare niente, capito? No, l'importante è che si capisca, che sia chiara, poi se è leggermente acuta, se è leggermente nasina, ma non fa di nulla, viene di peggio. Sì, ma non è chiara, però io voglio dirti questo, che mi meraviglio di te, c'è un sacco di anni frequenza, non è chiara, è una radio che è ascoltabile al 100%, no, sta uscendo male, metti un altro microfono e ti sentiamo, grazie a Dio, ti sento 34, non ci bisogna avere un'amplificazione, un tale più 3 più 2 o un tale più 3, cioè io sto usando un microfono normale, un tale più 3 che c'è forte, ma non mi ne frutti nulla, sto usando il mic normale. Ma scusa, tu con che radio stai ascoltando? Con il Galaxy? Eia! Ascolta, il Galaxy hai l'NB inserito, NB dove c'è scritto, come cazzo si chiama, NL. Aspetta, che guardo, che io sono qua, quasi al buio. Allora, quello NB è sollevato in su. Cazzo abbasso, toglielo. Tolto. Prova a parlare a veste migliore, Ricca. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova radio. Vediamo come sto andando adesso. Più o meno siamo lì, non ha cambiato un granché, mi aveva cambiato il 2%, non di più. Qualcosa cambia però, perché quella allarga ancora di più la modulazione, capito? Tutto lì. Vabbè, comunque. Prova a mettere l'MC80, Ricca, con le stesse regolazioni che hai fatto, Ma che apparato sta usando, Riccardino? Cosa? Che apparato sta usando? Il mio apparato sta usando il DS430 che gli ho prestato io in attesa che arrivi il suo. Forse quel microfono che ha messo non è adattabile per quell'apparato. Voilà, adesso sto parlando con l'MC80. L'MC80 è, sono 30 cm dal microfono, no, forse così, 10 cm, 1-2-3 prova radio, 1-2-3 prova radio. Sinceramente, qua, come l'hai sentito, dai, come finiva quella parola, senti, prrr. Sì, stai pernacchiando. Abbassa un pelino il mic gain, Ricca. Ho abbassato un pochino il mic gain adesso. Adesso va un po' meglio.